Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Wenn ich Aguirre will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen. Se io Aguirre voglio che gli uccelli cadano fulminati, gli uccelli devono cadere stecchiti dagli alberi. Sono il furore di Dio. La terra che io calpesto mi vede e trema. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Sono Aguirre, il furore di Dio. E quella che sentite è la voce di uno dei più grandi attori del Novecento, ma soprattutto dell'attore del Novecento più disturbato mentalmente. Più che un attore, una maschera tragica, feroce, sicuramente un pazzo, un uomo a cui la legge scritta non importava, come diceva di lui il suo grande nemico amico, il regista Werner Herzog. Lui è rimasto scolpito nella mente di tanti per la sua follia, il suo disagio mentale enorme, il suo carattere violento, irascibile. È sempre stato difficilissimo lavorare con lui. Forse l'unico che sia riuscito in questa impresa è stato proprio Herzog, che ha fatto con lui 5 bellissimi film: Aguirre, poi Fitzcarraldo, Cobra Verde, Nosferatu e Wojciech. E il prezzo è stato carissimo da pagare. Insomma, stiamo parlando della contorta e disturbata mente di Klaus Kinski. Lavorare con lui significa operare similarmente a quei pazienti documentaristi che fanno la posta per ore alle belve nella savana. Bisogna nascondersi tra i cespugli e aspettare che vadano alla fonte a bere per poterli riprendere. Ma torniamo indietro, 1955, Monaco di Baviera, Elisabethstrasse. C'è una modesta pensione gestita da una anziana signora, Frau Clara Rieth. La signora ha un debole per gli artisti, forse perché viene da una famiglia di pittori. Coltiva il suo lato eccentrico, si colora i capelli di rosso ciliegia e accoglie giovani anche disagiati, con i quali però parlare di arte e teatro. Le parlano di un attore povero maestroso che abita di fronte alla sua pensione. Lei va a trovarlo e non può credere a quello che trova in questa gelata mansarda. Uno spazio privo di mobili, ricoperto di foglie secche, e nel mezzo c'è un uomo biondissimo, completamente nudo, che l'accoglie urlandole contro. Ma lei, malgrado questo, prende la decisione di soccorrere questo ragazzo, che, come avete capito, a lui è Klaus Kinski, e lo porta nella sua pensione. Gli inizi però non sono promettenti. Si chiuse dentro il bagno per 48 ore e nella sua furia maniacale ridusse tutto in pezzi infinitesimali. La vasca, il lavandino. Si sarebbe potuto passare tutto al setaccio attraverso i buchi di una racchetta da tennis. L'episodio ce lo racconta Werner Herzog, che per una incredibile coincidenza all'epoca ha 13 anni e vive nella stessa pensione di Frau Rieth insieme alla madre e ai fratelli. E l'incontro con questo folle trentenne è di quelli che segnano una vita. E a poco, nei giorni che seguono, la storia dello strano attore affiora in tutte le sue difficoltà proprio di gestire il rapporto con la vita e con se stesse, anche se ovviamente non giustifica, insomma, tutto il comportamento di Kinski, però ce lo spiega. Nikolaus Karl Günther Naksinski, in arte Klaus Kinski, nasce nel 26 a Sopot, in quello che allora era la città-stato di Danzica. Il territorio di Danzica contava più di 200 tra città e paesi a prevalenza tedesca, quelli che secondo il trattato di Versailles dopo la prima guerra mondiale dovevano venire considerati separati dalla Repubblica di Weimar. E fu impedita la possibilità di riunificarsi a questi stati fino a quando il Terzo Reich risolse il problema in una maniera diametralmente opposta, occupandoli con le sue truppe nel 1939. Per Perché vi dico questo? Perché l'infanzia di Kinski è triste oltre che povera, perché è caratterizzata da un paese senza identità e anche dall'oppressione di un padre che vorrebbe seguire il suo sogno di cantare l'opera e da una madre distrutta dalla fatica. È ancora buio quando mi sveglio sul pavimento freddo e sento mia madre piangere. Mi do un buffetto sulla faccia per vedere se sto sognando. Mi fa male. Quindi questa è la realtà. I miei occhi si adeguano immediatamente alle tenebre. Mia madre non può essere troppo lontano da me. A destra. Si siede al tavolo tenendosi la faccia con le mani. Mi avvicino per accarezzarla barcollando verso di lei. Trovo entrambi i miei fratelli aggrappati alle sue cosce. Mia sorella dorme in piedi, la testa di lato sul tavolo. Alla finestra, la silhouette di mio padre sbuca dalla notte. Sembra stia fissando immobile la neve. È un'immagine terribile, sembra un film di Herzog. Quando la famiglia si trasferisce a Berlino, le cose non migliorano. Klaus viene arruolato giovanissimo nell'esercito tedesco, viene mandato in Olanda, viene fatto prigioniero dagli inglesi. E quando nel campo di prigionia gli viene detto che i prigionieri malati vengono rimpatriati prima, lui trascorre ore nudo al freddo, beve la sua urina, mangia sigarette per cercare di ammalarsi, ma non ha risultati. Però comunque le sue peripezie sono tali che una volta tornato in Germania viene condotto dritto in manicomio, viene definito un pericolo pubblico, gli viene fatta una diagnosi preliminare di schizofrenia per poi dargli definitivamente dello psicopatico. Però viene definito anche un genio, anche se un pericolo per se stesso e per gli altri a causa delle sue sfuriate terribili. È un matto, insomma. Durante il ricovero arriva a tentare il suicidio ingerendo 3 fiale di morfina per amore di una dottoressa più anziana di lui. Il falco e il gabbiano. Così a guerra finita, Klaus Kinski comincia a lavorare per piccole compagnie che in genere poi lo licenziano per via del suo carattere. Poi c'è il suo ricovero nell'ospedale psichiatrico, poi altri 2 tentativi di suicidio e poi un periodo a Vienna, e qui lui comincia a recitare in qualche piccolo film, perché comincia la grande onda delle pellicole di guerra e quindi c'è grande richiesta di un personaggio come lui, che potrebbe fa il soldato, il nazista biondo con l'aria da psicopatico. È perfetto, la parte perfetta. E uniche eccezioni del periodo, una partecipazione al Dottor Zivago di David Lean nel 65, poi viene chiamato in Italia da Sergio Leone, che lo vuole nel film Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood, con Gianmaria Volonté, Lee Van Cleef, e Kinski è Wild, il gobbo. Ti ricordi di me, amico? Ma sì, è il paso. Il mondo è piccolo. Sì, è anche molto cattivo. Prova ad accendere un altro fiammifero. Abitualmente fumo dopo mangiato, perché non torni tra 10 minuti? Tra 10 minuti fumerai all'inferno. Alzati! Calma, calma! In piedi! Conta fino a 3. Ormai Kinski è in Italia e si ferma da noi per qualche anno, perché è il periodo degli spaghetti western. Il suo nome inizia a fare il giro dei registi e dei produttori italiani dell'epoca, perché lui, grazie al suo ghigno, insomma, è molto ricercato per le parti da cattivo. Però non sempre le pellicole sono di questo livello, perché il suo carattere distruttivo, ingovernabile, gli rende difficile il rapporto con qualsiasi regista. Ne sa qualcosa Pasquale Squittieri, che lo ebbe protagonista nel 71 del suo film La vendetta è un piatto che si serve freddo. Kinski sul set si dimostrava veramente feroce come una belva. Ricordo che c'era una scena molto banale: io ero con la macchina da presa all'esterno di una tipografia, entravano alcuni aggressori, prendevano Kinski, lo trascinavano fuori, perché volevano impiccarlo. Bene, io giravo e queste comparse che dovevano prendere Kinski dopo un po' uscivano tutte tumefatte, sanguinanti, col naso spaccato. E io dissi a Kinski di non reagire così, perché non era una scena di un film, non c'era realismo. E lui disse no, realismo, realismo. E allora vabbè, disse calmati un po', cioè, mandai di nuovo la seconda volta queste comparse a prendere e uscirono di nuovo tutte sanguinanti, spaccate, con Kinski sempre più furioso che voleva questo realismo, realismo. Allora alla fine mi vestì io da cittadino del West, presi una mazza da baseball, entrai nella sala con Klaus e appena vide che io ero disposto a spaccargli la testa e a portarlo fuori in maniera realistica, e allora si fece portare via molto gentilmente, senza troppe storie, e da lì poi diventammo, come sempre succede, grandi amici. Ma non è solo il suo carattere che gli impedisce di fare film di qualità, è anche che lui ha continuamente bisogno di soldi e quindi accetta qualsiasi cosa. La cosa però a lui sembra che non interessi, lo spiega proprio in italiano in questa intervista. Che cosa senti nel cuore quando tu fai un ruolo di cattivo, di duro, e un ruolo di buono, per esempio il ruolo del prete che stai facendo in questo film? Tanti prete, non so, 10 diversi, buoni, cattivi, non so, il cuore, che io sento in cuore, quanti pagano questi sentimenti? Allora, inutile la chiara a un attore che cosa si sente, chi se ne frega che si sente l'attore? E arriviamo al 72, l'anno in cui in qualche modo tutto inizia per lui, in cui abbiamo il primo di vari colpi d'ala, anche se di voli assolutamente, come dire, disturbati dalle intemperie della follia. Il giovane regista trentenne Werner Herzog, quel bambino che aveva conosciuto Kinski nella casa della signora, ha appena scritto una sceneggiatura e il film si chiamerà Aguirre, furore di Dio. Ha bisogno dell'interprete adatto, il folle soldato spagnolo assetato di potere che si trascina in zattera su un fiume della foresta amazzonica, insomma è un'altra follia da fare, e c'è bisogno di un attore particolare. Herzog si ricorda di quel pazzo conosciuto a Monaco di Baviera e lo chiama per fare questo film. Nel progetto di Herzog, Aguirre è un soldato che, accecato dal delirio di onnipotenza, vuole per sé e per i suoi compagni onori e gloria e oro, fino a trovare la morte folle su una zattera. A lui interessa proprio questa follia, questa megalomania. Era un vero egocentrico. Ogni volta che c'era un incidente, per lui diventava un grosso problema, perché tutto a un tratto non era più al centro dell'attenzione. Non era più importante e questo non lo poteva sopportare. Però i problemi iniziano da subito. Intanto nella giungla peruviana, che è inospitale, si scatena la furia dell'attore. Per esempio scopre che nella scena iniziale lui sarebbe stato solo un punto in mezzo a una lunga fila di uomini in mezzo alla giungla. Questo lo interpreta come un insulto, vuole abbandonare subito la produzione, arriva a minacciare un altro attore con una spada e gli spacca di netto l'elmo in due. Le urla, le intemperanze di Kinski superano le stesse aspettative del regista, tanto che lo spingerà a gesti estremi. Litigò con un tecnico del suono e quindi mi chiese di licenziare il ragazzo, quando invece era tutta colpa di Klaus. Così gli dissi che non l'avrei fatto. Allora disse che l'avrebbe fatto lui e io gli risposi che non l'avrei permesso. Allora mi comunicò che se ne sarebbe andato lui, fece le valigie e salì sulla barca a motore. Mancavano 10 giorni alla fine del film. Così andai a parlargli, ovviamente disarmato, ma a bassa voce gli dissi che se fosse partito per la riva opposta gli avrei scaricato una pistola addosso e che avrei usato l'ultima pallottola per uccidere me stesso. Era uno intelligente e capì subito che non stavo scherzando. Kinski e Herzog sono veramente una bella coppia. Il film si rivela duro, produttivamente difficile, funestato da inconvenienti e da episodi particolari, come quando Herzog arriva a rubare 400 scimmie in spedizione per Miami dall'aeroporto dove si trovavano. E insomma, se Kinski era un folle, in Herzog aveva trovato uno matto quanto lui. Sentite cosa dice Kinski di Werner Herzog. È una persona di grande talento. Fa molti buoni film e non è il tipo che dice sempre cazzate. Fa tante cose giuste, ma è anche malato, ossessionato. Lui vuole fare la storia, non dei semplici film. E chiunque voglia fare la storia è uno stupido. L'epilogo del film è nel più puro stile Kinski, perché per problemi dovuti al sonoro, al ritorno della giungla, Herzog deve registrare altre parti della voce dell'attore, come accade spessissimo quando fai un film, e lui chiede $1,000,000 per rifare il doppiaggio, sapendo bene intanto che Herzog non ha più una lira, e poi tenuto conto che il film in tutto era costato $370,000, insomma niente smuove Kinski da questa follia, da questo tentativo di spillare altri soldi. Il regista è costretto a utilizzare un altro attore per portare a termine la lavorazione del film. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Klaus Kinski, sicuramente uno degli attori più dotati della sua generazione, ma altrettanto sicuramente il più pazzo, il più eccentrico, attore feticcio del grande Werner Herzog, il regista altrettanto disturbato mentalmente. Fanno il primo film assieme nel 72, Aguirre, il furore di Dio. Aguirre viene considerato, insomma, un film di culto, inserito nella lista dei 100 film più importanti del mondo, e questo sicuramente grazie all'interpretazione di Kinski, peraltro considerato anche fonte di ispirazione per Coppola, il suo Apocalypse Now. Il rapporto tra Kinski e Herzog è famoso per le intemperanze di entrambi, Kinski in primis, ma anche la inquietante resistenza passivo-aggressiva di Herzog. È vero che se Kinski deve la sua fama immortale ai grandi film con Herzog, lo stesso regista ha avuto molto dall'attore. Lui è l'unica persona da cui ho imparato qualcosa. Per esempio, cosa c'è dietro ai movimenti di una persona, che a volte può camminare come un ragno e a volte come un granchio. O il suo tempismo, quando fare una pausa o quando accelerare un discorso. Aveva anche uno straordinario senso per i costumi. Per Kinski, Herzog è la grande occasione, quello che riesce a riconoscere in lui quella genialità interpretativa che lui sa di possedere. Con Aguirre improvvisamente lui si trova a essere al centro dell'attenzione del mondo, della critica, e si inebria di questa sensazione perché ha già 46 anni, non è giovanissimo, e gli anni dei film di serie B gli hanno lasciato un segno negativo a lui, così ossessionato dall'arte della recitazione. E finalmente arriva un regista che, a differenza degli altri, non si spazientisce di fronte ai suoi isterismi e anzi cavalca questa follia, la provoca, sembra comprenderla davvero, forse perché in Kinski vede se stesso. È un sodalizio che si costruisce litigio dopo litigio, in un continuo rincorrersi, provocarsi, sfidarsi per ottenere sempre di più l'uno dall'altro. Kinski, col suo comportamento senza freni e senza riguardi per se stesso e per gli altri, è come se agisse da cassa di risonanza delle follie immaginarie di Herzog, mentre lui, Herzog, riesce con la sua fredda follia a incanalare in modo produttivo i deliri e le smanie di Klaus Kinski. Devo confessare che tutta quell'isteria che Kinski introduceva alla fine risultava produttiva. Forse è questo il punto principale. Ovviamente era imbarazzante per me e per lui, ma tutte le volte che Kinski usciva davvero fuori senno, isterico come il diavolo, funzionava. E quindi cercavamo di girare in fretta. E negli anni successivi i due girano assieme Wojciech e Nosferatu, il principe della notte, considerati due classici dell'alienazione e che Kinski ama molto. Io ero veramente questo Nosferatu quando, prima di girare, prima di cominciare il film, io mi sentivo a un punto insopportabile, trasformato, metamorfosato, questo personaggio. ma niente è neanche lontanamente equiparabile al quarto film girato dalla coppia nell'82, il mitico Fitzcarraldo. È la storia di un irlandese matto che vuole costruire un teatro dell'opera nel mezzo della foresta amazzonica e che per farlo non esita a scalare una montagna tirandosi dietro un battello a vapore. Per portare a termine questo progetto ci vollero 4 anni e qui sia il regista che l'attore raggiunsero veramente i vertici della follia, il meglio o forse è più il caso di dire il peggio di loro stessi. In una intervista Herzog dichiarò: se io abbandonassi questo progetto sarei un uomo senza sogni e non voglio vivere in quel modo, io vivrò o morirò con questo progetto. La storia, la cosa che sta più a cuore a Herzog non è tanto che Fitzcarraldo riesca a costruire il suo teatro, quanto che per realizzare i suoi sogni faccia salire una nave sulla montagna. Per rendere la potenza di questa volontà sceglie di utilizzare non un modellino, ma una vera nave da 300 tonnellate, trainata da una moltitudine di indios con un sistema di corde e di carrucole ideato da un ingegnere. Kinski non si ritrae di fronte al folle progetto, anzi, ed è la sofferenza che Herzog infligge a se stesso e ai suoi attori a stimolarli, è una sofferenza infinita, totale, mesi sotto piogge torrenziali, circondati da animali pericolosi, tra indios ostili, incidenti sul set, le cinghie che sorreggono la nave che a un certo punto si spezzano facendola cadere giù dalla collina, e poi le rapide che trascinano via la nave fino a farle incagliare. Kinski segue, ogni follia non si risparmia per il suo regista, però la tensione emotiva esplode poi in sfuriate che saranno epiche. Non mi dire come devo recitare. Non lo sopporto, posso farlo da me. Se pensi di essere migliore, perché non reciti tu? Tu sei sempre per le mezze misure. Sei fottutamente spaventato dalle conseguenze. Se vuoi che qualcuno sia eccitato, allora lascialo eccitare. Allora fai girare quella maledetta cinepresa. No, la cinepresa resta spenta. Io recito come mi pare. Ok, ma dobbiamo... Tieniti il tuo consiglio di merda per te. Tu non sei un regista. È da me che devi imparare. Tu sei un principiante, un regista nano. Non sei un regista per me. Non insultarmi. Insultarti? Sei tu che mi insulti cercando di dirigermi. E intorno a Herzog e a Kinski e alla loro rappresentazione esplosiva della lotta tra la vita e la morte, la troupe e le comparse assistono impotenti davanti a tutta questa follia. Merkwürdig dabei war auch folgendes. Quando succedevano queste cose, cioè ogni giorno, si vedeva che gli indios erano morti di paura. Ce n'erano 370 che venivano dalle montagne e non avevano idea di cosa stesse accadendo. Ma ovviamente sentivano che qualcosa non funzionava. Alla fine delle riprese uno dei capi venne da me e mi disse che non avevano avuto paura dell'uomo pazzo che aveva urlato tutto il tempo. Avevano avuto paura perché io ero rimasto così tranquillo. Die hatten Angst, weil ich so still war. Alla fine di queste riprese gli indios, così per ringraziare Herzog, si offrono di uccidere Kinski per lui e lui declina l'offerta. Chissà se si è mai pentito di questa decisione. Fitzcarraldo vince il premio per la regia al Festival di Cannes dell'82. 5 anni dopo, nell'87, Herzog e Kinski girano l'ultimo film della loro saga personale, Cobra Verde. È tratto da un romanzo di Bruce Chatwin sulle avventure di un venditore di schiavi. Nella scena finale Kinski è su una spiaggia al tramonto, solo, pazzo, tanto per cambiare, sotto gli occhi di decine di neri, cerca disperatamente di mettere in acqua una piccola scialuppa, mentre lui barcolla, uno storpio lo osserva mentre si trascina sulla battigia, e finisce così con questa immagine di infinita impotenza, anche questo folle e scellerato sodalizio tra il regista e l'attore. La carriera di Kinski non si ferma a Herzog. Nell'84 gira un film con Diane Keaton che si chiama La Tamburina e poi lo coinvolgono in un film che dovrebbe ripetere il successo di Nosferatu, però in Lagura, il sequel. È Nosferatu a Venezia, le cose non vanno bene, però ce lo racconta il regista Luigi Cozzi, che abbandona il progetto appena capisce come stanno le cose. Aspettavamo Kinski e quindi ci siamo preparati tutto il trucco, perché Kinski era come nel film di Herzog, quindi con tutta la testa pelata, i denti qui. La prima cosa che ha fatto quando è venuto in ufficio, ha salutato tutti e poi ha detto no, ma io recito così, avevo i capelli fluenti, lunghissimi, ha detto io non mi metto i denti e non mi metto la pelata in testa, recito così. E Nosferatu a Venezia, Kinski fa Il bello e il cattivo tempo, costringe la produzione a 3 cambi di regia e lui dilaga in ogni aspetto della produzione e in pratica rovina definitivamente il risultato. E poi c'è l'ultima prova cinematografica di Kinski, un film voluto, prodotto, diretto, interpretato e intitolato a se stesso, Kinski Paganini. Originariamente lui aveva chiesto a Herzog di dirigerlo, però il regista, dopo aver letto la sceneggiatura, dichiara che è troppo anche per un matto come lui, e per tutta risposta Kinski dichiara ai giornalisti: non condivido nulla con Herzog, neppure l'idea del cinema, ha cercato di ammazzarmi sul set più di una volta, ma non ci è mai riuscito. Però nel caso di Paganini Herzog aveva ragione, perché il film è una cozzaglia di immagini tutte esagitate, col protagonista che seduce donne, sbraita, corre in ogni angolo delle stanze. Per Kinski Paganini è il suo progetto, la sua follia. Lui voleva realizzarlo fin dagli anni 50 perché si era identificato fortemente con Niccolò Paganini. Paganini mi assomiglia, mi riconosco nel suo spirito anarcoide, senza sovrastrutture. Il film l'ho girato in preda ad una specie di febbre, di delirio, con la camera a mano su e giù per l'Italia. Quando mi prendeva la smania, dovevo girare, assolutamente. È stata a tutti gli effetti un'esperienza metafisica, anche se gli infami scribacchini, suoi colleghi, hanno trovato il modo di sfottermi, di svillaneggiarmi anche su questo. Nel film recitano anche la sua compagna del momento, giovanissima, l'attrice Deborah Caprioglio, che lui presenta come Deborah Kinski, e poi c'è il figlio più piccolo, Nikolai, l'unico maschio avuto da una franco-vietnamita che è la sua terza moglie. E lui nella sua vita, Kinski, ha avuto innumerevoli amanti, però 2 mogli, con ognuna delle quali ha fatto un figlio. La primogenita è Paula, che anni dopo la morte di Kinski scrive un libro in cui lo accusa di averla violentata da quando aveva 5 anni. La secondogenita è la famosa, bellissima Nastassja Kinski, che a 15 anni diventa famosa interpretando film Tess d'Urberville di Roman Polanski. E poi c'è Un sogno lungo un giorno, che vi starà consiglio, in cui Nastassja Kinski vi stenderà se avete degli ormoni degni di questo nome. Anche Natasha, peraltro, ha una relazione molto sofferta con questo padre così ingombrante. Lui non era un padre. Il 99% del tempo ero terrorizzata di lui. Era così imprevedibile che la famiglia viveva nel costante terrore. E forse anche per questo che quando Kinski muore di infarto nel 91 a 65 anni, al suo funerale c'è solo Nikolai che sparge le ceneri del padre nell'oceano. Nastassja dichiarerà questo qualche tempo dopo. Quando è morto ho sentito un momento di dolore che è durato circa 5 minuti. È stato molto intenso. Poi niente più. 8 anni dopo la sua morte, l'amico nemico Herzog decide di rendergli onore realizzando un docufilm intitolato Kinski, il mio nemico più caro. Spezzoni di film, interviste e riflessioni sul suo rapporto con l'attore. Le immagini finali ci mostrano Kinski in un momento di pausa durante la lavorazione di Fitzcarraldo. Su di lui si è posata una grande farfalla tropicale con cui l'attore gioca e alla quale distrugge dispensa uno dei suoi rari sorrisi e in quel momento appare dolce, come pacificato, e le parole di Herzog su queste immagini in fondo sono l'epitafio più sincero. Lo vedi come una farfalla, gentile, delicato. La piccola creatura non voleva lasciarlo, non sembrava averne paura. Qualche volta mi sembra che Klaus stesso si sia trasformato in una farfalla. Tutto quello che gravava su di noi è sparito. E anche se la mia mente si ribella al pensiero, qualcosa dentro la profondità di me stesso mi dice che è così che voglio ricordarlo. Come altre volte abbiamo raccontato, la follia può diventare un incubo, ma può anche essere un propellente. Nel caso di Klaus Kinski è stata entrambe le cose: una vita contrassegnata da colpi d'ala in alto, in basso, ma soprattutto da accessi terribili di follia che rendono Klaus Kinski un attore unico nel panorama degli ultimi 50 anni. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala. E voi, se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, potete scrivere al falcoilgabbiano@radio24.it, potete visitare la nostra pagina, potete venirmi a trovare nei miei social Facebook, Twitter, Instagram e nei social della trasmissione della radio. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.